so esala to boinde kotongo los pakio yo ya malonge so ki biso to lo bilos pakio lo bakango mite mama be tutuni na manika ki biso to salate to yakina mokili moto nyo so esala to boinde kotongo los pakio Los peki sala sango bobangola So ki ba come kabiso los peki sala sango bobangola Namo ki li belo bakio sala musala ne komola oyo ekoye la yo Namo ki li belo bakio sala musala Oyo ekoye la yo Sambela tsambe ya bombelos Sambela tito Sambela tsambe ya bombelos Sambela sami Sambela tsambe ya bombelos Sambela sejo Sambela tsambe ya bombelos Sambela diamo Sambela tsambe ya bombelos Sambela wisho Sambela tsambe ya bombelos Bakie, hein? Ouvo! songi di popo sambi da kenge ina linda linda. Omoni Jose omoni sami ilo kibiye bana na los baki. Elle est maman.